Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di un tema di profonda attualità sulle prime pagine dei giornali da molto tempo. Parliamo di banche e lo facciamo con Stefano Righi. Buonasera Stefano Righi. Buonasera, buonasera a tutti voi. Stefano Righi è giornalista del Corriere della Sera, si occupa di economia e finanza, soprattutto di banche e assicurazioni, e ha scritto questo libro, Il Grande Imbroglio. Beh, un titolo un po' pesante, ma adesso ce lo spiegherà, come le banche si prendono i nostri risparmi. Ma poi girando la copertina c'è scritto anche tutto quello che dovete sapere perché la prossima crisi bancaria non tocchi i vostri risparmi. Quindi è un libro in cui si illustra una situazione di difficoltà, ma si danno anche delle prospettive, diciamo così, utili per cercare di conoscere il sistema bancario con cui tutti dobbiamo avere a che fare per trattare, per mantenere, per aumentare se possibile i nostri risparmi. Allora Stefano Righi, veramente le banche si prendono i nostri risparmi? Beh, speriamo non se li prendano più, di sicuro se li sono presi, perché quello che è accaduto nel 2015 e anche un po' in questo inizio del 2016 dice proprio questo, che a forza di bond subordinati, parola chiave, subordinati, nessuno sapeva che cosa volesse dire fino a che si è capito che erano sostanzialmente dei titoli equiparabili in tutto e per tutto alle azioni, e poi con le azioni delle banche popolari non quotate, ahimè, hanno perso il 90%, forse di più, del loro prezzo nominale. Ecco, in queste due maniere qui le banche purtroppo si sono prese i nostri risparmi. Nel libro diciamo stateci attenti, perché purtroppo sono cose che possono capitare ancora. Ecco, il libro spiega molto bene anche con una cronistoria all'inizio di quanto è successo lo scorso anno sul fronte bancario e di cose ne sono successe, però in fondo c'è anche il fatto che indubbiamente ci sono state delle banche che sono fallite, le quattro famose banche del centro e nord Italia, ci sono delle banche che sono state in gravi difficoltà, e qui citare il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa di Risparmio di Genova, può essere una cosa quasi pletorica. Ecco, ma in un certo senso il sistema complessivamente ha resistito. Possiamo considerare questi elementi di crisi come delle eccezioni in un sistema che si è detto spesso è solido? Assolutamente sì, perché le quattro banche a cui facevi riferimento tu, che sono andate in grave difficoltà a fine novembre del 2015, rappresentano alla fine l'1,5% di tutto il mercato delle banche. È chiaro che però se tu sei correntista di una di queste quattro, anche un solo euro perso ti dà fastidio. Rispondendo alla tua domanda, il sistema è solido. Ben più solido di quanto si voglia far pensare. UniCredit è una delle grandi banche europee, Intesa è una banca tra le più solide in Europa, ma anche quello che sta accadendo alle spalle di queste, penso a Lubi, che è un'ottima banca particolarmente patrimonializzata, al Banco Popolare, alla Popolare Milano, sono banche di grande solidità, non voglio dimenticarne alcuna. Certo, in questa, però ci sono anche delle eccezioni. Il Monte dei Paschi è uscito dal tunnel dopo 5 anni nerissimi, ha chiuso inutile un esercizio e ne siamo tutti come italiani contenti, e altre banche stanno facendo passi importanti. Certo, ci sono le eccezioni. Questo è un libro che guarda ai pericoli che sono ancora insiti nel sistema. Ecco, in questo senso è un invito appunto anche ai risparmiatori ad essere prudenti, in un certo senso ad essere informati, a informarsi sui prodotti che vengono loro offerti, a non fidarsi così ciecamente delle banche, perché anche le banche fanno i loro interessi. Ma guardando un po' lo scenario, possiamo dire che c'è stato qualche elemento che ha in qualche modo accentuato la crisi, per esempio sul fronte di una vigilanza non troppo attenta, per esempio sul fronte di una politica europea che si è sovrapposta spesso alle politiche italiane, per esempio sul fronte degli interventi del governo che hanno lasciato in qualche modo aperti dei problemi invece di risolverli. In questo senso non bisogna dare tutto addosso ai banchieri. Stefano Righi. No, assolutamente, hai ragione. Quello che è successo però è stata un'improvvisa accelerazione di un meccanismo che si dava per stabile e immutabile. Invece dal 4 novembre 2014 con l'Unione Bancaria Europea, è cambiato tutto. La colpa è che non se n'è accorto il governo italiano, che in quel momento lì pensava ad altre cose, non se ne sono accorte le autorità di vigilanza, non se ne sono accorti i banchieri. È cambiato tutto, è per questo che noi diciamo ai risparmiatori: state attenti, perché non arriverà più nessuno a salvarvi, siete i fautori del vostro futuro e del futuro del vostro risparmio, per questo dovete aprire gli occhi. E se mi permetti, c'è all'inizio del libro quel richiamo a quella ricerca della Banca Mondiale che pone gli italiani, che sono un popolo di straordinari risparmiatori, in coda alla classifica di coloro i quali sanno di finanza. Siamo dietro, secondo appunto la Banca Mondiale, a paesi come il Botswana, il Mali, il Kenya, che sono nazioni bellissime ma che non sono industrialmente e finanziariamente all'altezza dell'Italia. Ecco, qui se appunto tu tocchi un tema particolarmente importante, che è quello dell'istruzione, dell'educazione finanziaria, della consulenza finanziaria, qui a Radio 24 diciamo è un pane quotidiano quello di parlare di soldi, di parlare appunto della necessità che le persone abbiano un atteggiamento responsabile di fronte ai propri soldi soprattutto, e quindi che conoscano la realtà a cui vanno incontro. Ecco, in questa prospettiva c'è da fare molto sul fronte della scuola, si insegna poca economia e soprattutto poca finanza nelle scuole, c'è da fare molto anche sul fronte però della comunicazione delle banche. La comunicazione è qualcosa che dà delle garanzie formali, però le banche per esempio quest'anno hanno mandato dei lunghi papiri per spiegare il bail-in, cioè il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie, però uno alla terza riga magari si fermava perché avevano un linguaggio certamente un po' difficile. Ecco, il Sole 24 Ore ha fatto un richiamo per avere un manifesto, per fare un manifesto per una finanza trasparente. C'è bisogno di finanza trasparente, Stefano Righi. Il Sole 24 Ore con il manifesto ha sfondato una porta aperta, ha fatto benissimo ed è giusto continuare in questo senso qui. Il problema è, tu l'hai centrato, noi non abbiamo bisogno di altra modulistica, non abbiamo bisogno di altre 50 firme da porre su moduli incomprensibili, abbiamo bisogno di sapere e di conoscere. Certamente la scuola ha delle responsabilità e hanno delle responsabilità probabilmente anche le banche. Certamente quello che ognuno di noi può fare è capire di più, perché non arriverà più nessuno stellone della Repubblica a salvare i nostri risparmi. Dobbiamo pensarci noi. Ecco, da un profilo borsistico possiamo dire che i titoli delle banche sono scesi così in basso che non possono che risalire, facendo così un po' tra parentesi, Stefano Righi. Sì, se consideri che dall'inizio del 2016 alcuni titoli hanno perso ben oltre il 50% e venivano già da stagioni molto magre, quello che tu dici è da sottoscrivere. Però quando si tocca il fondo talvolta si comincia anche a scavare, quindi bisogna stare molto molto attenti e molto cauti. Noi non vogliamo suggerire nessun tipo di investimento. Alcune banche oggi valgono meno di mezzi propri, cioè vendere i pezzi significherebbe realizzare più del vendere l'insieme. Ecco, scrivi infatti alla fine del tuo libro: resta un gran mal di testa, ma la rivoluzione copernicana in corso non finirà a breve, anzi i risparmiatori dovranno maggiormente tutelarsi, informarsi, affinare le loro conoscenze finanziarie, ma le banche tutte dovranno attivarsi per riconquistare un rapporto fiduciario pesantemente compromesso. La partita è aperta, i giocatori in campo. C'è questa però questa crescita di consapevolezza, Stefano Righi, sia da parte dei banchieri sia da parte di chi le banche appunto le usa come risparmiatori, che bisogna fare dei passi davanti di maggiore apertura, di maggiore informazione, di maggiore capacità di essere appunto trasparenti ma anche efficienti. Io credo che non possono più considerarsi contrapposte le posizioni di banchieri e di clienti della banca. Il mondo è il medesimo e devono ognuno per la parte di propria competenza navigare nella medesima direzione. Non si può pensare di imbrogliare ancora il cliente vendendo ad anziani, pensionati, risparmiatori dei titoli ad alto rischio. Questo è un gravissimo attentato al principio base di ogni manovra economica, che è la fiducia. Ecco, e in questa prospettiva possiamo guardare anche alle banche per una ritrovata capacità del sistema di finanziare anche un'economia reale che ha bisogno di essere sostenuta e che negli ultimi anni è stata un po' sacrificata sotto il fronte dell'esigenza appunto delle banche di fare investimenti finanziari che rendessero immediatamente gli investimenti dell'economia reale, ci sono stati, in molti casi hanno creato delle sofferenze che adesso appesantiscono i bilanci bancari, però sono ancora indispensabili gli investimenti, forse ancora più indispensabili di prima. Forse più indispensabili che prima, hai ragione tu, e certamente un paese moderno qual è l'Italia non può prescindere da un sistema bancario sano e votato al finanziamento delle imprese sane, le imprese sane con prospettive di crescita, perché questo crea occupazione e ricchezza per tutta la popolazione. Da questo non si può prescindere. Ecco, in questo senso il libro di Stefano Righi, lo ricordo, Il grande imbroglio, come le banche si prendono i nostri risparmi, è una guida a capire come il sistema bancario ha potuto in qualche modo deviare dalla sua retta via e ha avuto appunto alcuni episodi lo scorso anno in cui alcune banche sono state in difficoltà, 4 banche sono fallite e poi sono riuscite a recuperare grazie all'intervento del governo in un sistema appunto che comunque resta fondamentale per i singoli risparmiatori, resta fondamentale per l'impresa, resta fondamentale appunto per un'economia che voglia crescere e che crescendo possa avere i mezzi per investire, per cambiare anche i sistemi produttivi, cambiare anche adeguandosi appunto a una realtà che è in profondo mutamento a livello nazionale e internazionale. Quindi vi ricordo il libro di Stefano Righi, Il grande imbroglio, come le banche si prendono i nostri risparmi, edito da Guerini e Associati, sono 160 pagine per 12,50 euro. Grazie a Stefano Righi di essere stato con noi questa sera, grazie anche a Paolo Corleoni in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.